Salve a tutti, io sono Jasmine e questa è Radio Big World e siamo alla terza puntata di Curiosità Animate, dove vi parlerò dei più famosi cartoni animati partendo dai classici Disney. Il terzo di cui parliamo oggi è Fantasia, che è cronologicamente considerato il terzo classico Disney ed è stato distribuito nel 1940. Il film è molto diverso dal resto dei classici, si tratta infatti di spezzoni animati accompagnati da musica classica, registrata dall'Orchestra di Filadelfia. L'impostazione di Fantasia è quindi molto vicina a quella delle Silly Symphonies, cortometraggi prodotti durante gli anni 30, basati anch'essi sull'accompagnamento musicale. Infatti, il segmento animato più famoso, ovvero l'apprendista stregone, che ha come protagonista Topolino, era stato pensato per essere una Silly Symphonies, ma dato che la sua produzione era troppo costosa, Walt Disney ha pensato di introdurlo in un lungometraggio, con altri spezzoni animati. Il protagonista di questa scenetta, come abbiamo detto, è Topolino, che è uno stregone in erba impegnato a perfezionare le sue doti. L'animazione di questo segmento è tuttora considerata come esempio anche per molti altri film Disney, dato che apporterà quasi tutti i principi fondamentali dell'animazione. Tutte le sequenze animate del film, che sono 8, sono alternate da immagini astratte, come per esempio la toccata e fuga in D minore, che è la prima sequenza che vediamo all'inizio del film. Poi ci sono anche delle riprese live action dell'orchestra, che improvviserà anche delle jam session di jazz, oppure animazioni di stampo allegorico, come per la pastorale di Beethoven. La particolarità di Fantasia è quindi il ruolo centrale che assume la musica nel film. Le animazioni sono create più come accompagnamento visivo per la musica stessa. Infatti, Fantasia è un film molto importante per le apportazioni tecnologiche che ha portato. Infatti, essendo un film così incentrato sulla musica, Walt Disney ha scommesso tutta la sua carriera quasi per creare un nuovo sistema di registrazione musicale chiamato il Fantasound. Infatti allora il sistema di registrazione era il mono, mentre il Fantasound è uno dei primi sistemi stereo che permettevano di registrare più tracce insieme e di apportare, diciamo, più complessità alla musica. Dunque, insieme alle apportazioni tecnologiche sia musicali che visive, Fantasia è tuttora uno forse delle opere più famose e più importanti create dalla Disney, proprio perché tuttora è considerato il pilastro quasi dell'animazione visiva, ma anche delle colonne sonore. Fantasia, pur contenendo spezzoni di personaggi in stile cartoon, non è un lungometraggio necessariamente pensato per bambini, ma è più un musical animato che va apprezzato per la tecnica e le idee che ci sono state dietro. Infatti la prima distribuzione è stata trasmessa anche in alcuni cinema di Broadway, proprio perché erano gli unici che avevano un impianto stereo molto più adatto per trasmettere la colonna sonora di Fantasia. Ma purtroppo non ebbe moltissimo successo proprio per la limitatezza delle sale in cui poteva essere stato trasmesso. E quindi il suo successo sarà molto successivo agli anni 40, dove c'era appunto anche la Seconda Guerra Mondiale, e i critici l'hanno apprezzato più durante gli anni 60. Questo è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.